Un domenicano. 5 settembre. Adesso anche le ombre si vanno trasformando. Venne da me un domenicano che aveva il viso ancora irriconoscibile, una massa scura. È abbastanza quieto, ma mormora parole incomprensibili, pare in latino. 6 settembre. Egli rimase con me tutta la notte. Io ero tanto piena di sonno che continuai a dormire e perdetti la Santa Comunione. Così sempre presa dalla cura del corpo, immortificata e spiritualmente pigra. 10 settembre. Niente di nuovo. Il domenicano non mette paura, solo che rimane troppo a lungo. Sulla strada che porta alla segheria incontrai una donna, che non aveva in sé niente di particolare. Quando passò vicino a me udii un grido, misericordia. Io mi voltai e solo allora mi accorsi, che era una povera anima. Effettivamente gli occhi sono del tutto diversi. C'erano degli operai nella campagna, e così feci finta di aver perduto qualche cosa e le chiesi sottovoce, che cosa posso fare per te? Lei, pregare. Io, sei la Teresa B? Lei, sì. Io, eppure tu sei vissuta molto bene? Lei, tutta apparenza, io sono stata vera soltanto in punto di morte. Io, devo dirlo alla tua figliola? Lei, no, tu mi puoi aiutare. Io, ma io devo aiutare tanti con la mia povera preghiera, e così tu ne riceverai ben poco. Lei, quando è l'amore e la donna, le cose piccole diventano grandi. E disparve. 13 settembre. Io ero molto triste per qualche ragione e piangevo. Ed ecco una mano posarsi sul mio capo. Alzai gli occhi, era il domenicano. Egli disse, perché piangi? Io, perché non sono contenta di me. Lui, perché non mi dici tutto? Io, puoi aiutarmi? Lui, vorrei. Io sono tanto preoccupata per l'anima mia. Non può bastare la volontà di bene, e di più non so fare. Lui, se tu non pecchi, non puoi andare perduta. Io, ma io pecco, purtroppo, non puoi vedere la mia anima? Lui, no, ma la strada per venire da te è chiara, altrimenti noi non potremmo venire. Abbi fiducia e sii umile. Io come ti posso aiutare? Lui, con la mortificazione. Egli si fermò ancora a lungo. È la prima apparizione che incominciò a parlare senza essere stata interrogata.